So I start another day. Without my wife, my mom. Hank Hang, Gli occhi selvatici. Feuilleton teatrale multilingue di Labo 07. Episodio 1 di Karin Ser. Personaggi: Juliette, una giovane ragazza. Paul, un giovane ragazzo e oco selvatico. Knut, capo degli occhi selvatici. Coro di occhi selvatici. Una via in discesa, in qualche posto in Francia. Nella luce dorata di un tramonto autunnale, Paul e Juliette sono seduti su un muretto, uno zaino ai loro piedi. È per guardare le case che mi hai chiamata? Perché no? Guarda quella là, tutta sotto la luce. Impressionante, sì. Le grondaie che brillano come bacchette magiche dorate. E le finestre come acqua. Tutto giallo e blu. L'ora dorata. La mia preferita. Ti devo dire una cosa, Juliette. Una cosa importante. Ok. Era l'anno scorso, lo stesso periodo. La notte era già scesa e tornavo da scuola. Avevo perso il bus. Lo zaino era pesante e avevo male ai piedi. All'improvviso, sotto il ponte, davanti a me, ho visto come un bagliore. Mi farà paura? Ma no, stai tranquilla. Era la strega cattiva. Ma no, scema. Era una luce strana, come un riflesso di luce sulla neve. E allora ho rallentato. Ah, vedi? Per non spaventarli. Ma chi? Quello che vedevo muoversi sotto il ponte, simile a un gregge di pecore. Però brillava. E cos'era? Loro. Loro chi? Gli occhi. Si dice oche. No, gli occhi, con la I. Si chiamano occhi selvatici. Degli uomini che volano come uccelli, ma senza le ali. Eh? Sporgendosi, allargando le braccia. Hai bevuto? E muovendo le dita. Venivano dalla Svezia, dall'estremo nord, da là, il paese delle aringhe, delle renne. Delle aurore boreali, sì, sì. E poi dei trolls, dei vichinghi, dei licheni. Ecco, è per questo che quegli occhi si chiamavano Knut, come il loro capo. Oppure Jasper, Henning, Nils, Ulla. Una ragazza. L'ami? L'ami più di me. Ma no. Amo te, Juliette, stai tranquilla. Vuoi rompere? Ma no, ti amo, è per questo che te lo racconto, per farti capire. Ma cosa? Degli uomini volanti, quindi, è così? Soprattutto in primavera e in autunno. E chi glielo fa fare? Il freddo. Non abbiamo difese contro il freddo. Allora in inverno dobbiamo migrare verso il sud. Come gli uccelli selvatici? Ecco. Ma perché dici dobbiamo? Perché anche io sono un oco. Eh? Ti immagini l'impressione che fa vederli atterrare uno dopo l'altro, leggeri, silenziosi, inclinati in avanti, le braccia così, raso terra, per poi posarsi con grazia, toc, pof, e rimettersi a camminare normalmente. Siamo tantissimi, sai? Me l'ha spiegato Knut, il capo. Un gigante biondo con le orecchie completamente gelate, perché lassù in alto fa freddissimo. A ogni volo centinaia, migliaia di occhi raggruppati. Juliette, ti ricordi quante notti ho sognato che volavo? Allora anche io, ho chiesto a Knut, anche io posso fare come voi, perché non c'è alcuna differenza fisica tra gli occhi e gli altri uomini, lo capisci? Sì, sì, ma allora? Non hai che da provare, ha detto. Aspetta, tu parli svedese? Sì. No, senti, non lo so, ad ogni modo li capivo. Ok, ok, dunque, un vichingo che parla italiano alla testa di un migliaio di uomini che si mettono in volo verso i paesi caldi a causa del freddo, è così? Ecco. Avvicinati alla mia fronte, qui? Sì. Cosa c'è scritto, scema? Non è una bugia, Juliette, te lo giuro. E allora dimmi un po', cosa hai fatto per provare? Hai sbattuto le braccia correndo in cerchio come una gallina sgozzata? No, cretina, ho fatto ciò che ha detto Knut. Trova una via in discesa e non troppo frequentata. Perché? Aspetta e capirai. Comincia a scendere questa via, ha detto, passeggiando. Ma allora devo camminare? Sì, però apri un po' le braccia. Quando senti che hai preso velocità, piano, solleva i piedi. Ma quando? Quando? Quando sei pronto. Ma uno dopo l'altro? I due insieme. Ma allora io crollerò. Ecco, o decolli o crolli, o sei un oco o non lo sei. E allora? Sono decollato. Aspetta, hai davvero volato? Sì, capitano, l'ho fatto. Cosa? Tu sai volare? Mi sentivo anche io così, sai, ipereccitato, di più, stanco morto, questa paura di prendere il volo, di non sentire più niente sotto i piedi e questi crampi allo stomaco. Quando sono rientrato di corsa, gli occhi dormivano già stretti gli uno contro gli altri, la testa sotto il braccio. Volano anche 10 ore senza fermarsi. Ma io ho scosso Knut. Vengo con voi, ragazzi, l'ho fatto! Non è possibile, piccolo. Prima di poterci accompagnare, devi fare rifornimento. Devi ingrassare per poter sopportare la fatica dei lunghi voli. Ma l'anno prossimo, nello stesso periodo, torneremo. E allora, se ti sarai preparato... Ecco. Mi sembrava infatti che ti eri ingrassato dopo le vacanze. Sì, ne ho mangiati di carboidrati, di zuccheri, di grassi. La mia prima migrazione, ti rendi conto? È per questo, non volevo partire senza spiegarti. E quando parti? Appena arrivano in... non lo so, 5 minuti. Eh? Oggi? Ma non sei felice per me? Sì, sì, molto. E dove andate? Nel sud, in Spagna, in Andalusia, credo. Wow. Lo capisci? È per questo che sono così... così... che non vedo l'ora che passino. Se tu sapessi che cos'è volare, planare ore e ore sopra la città. Ah, l'hai fatto spesso? All'inizio ero così nervoso che cadevo di continuo. Ma a forza di allenarmi, sì, ora sì. Non è troppo stancante? E come, però si fanno delle soste. Ma i tuoi genitori, cosa diranno? Ma sono felicissimi, credono che vada in gita. Ma ti porti solo questo? Sì, lo spazzolino, il pigiama. Nessun cambio d'abito. Fa così caldo laggiù. È bravo il mio polò. No, io dico, che immaginazione. Mi ricorda quel racconto, sai, con la principessa che si brucia le dita a forza di tessere maglioni con l'ortica per i suoi 7 fratelli che una strega cattiva ha trasformato in cigni selvatici. Non sono balle, Juliette. Oh, certo che no. Tu, Paul Martin, stai per decollare con un gruppo di svedesi sbattendo le braccia. Ondulandole, piuttosto. E volerete attraverso il cielo d'Europa per ore. Per giorni. Bla, bla, bla. Direzione la Spagna e le sue spiagge. Ecco. Paul, hai sbattuto la testa di recente? Che cosa staranno facendo? Dovrebbero già essere qua. Ma sì, ora capisco. No, Paul, ma è troppo pericoloso. Pensa ai cacciatori che potrebbero confondervi con delle vere oche selvatiche e spararvi e ferirvi. Stai tranquilla, Juliette. Un oco ferito non resta mai solo. Viene scortato al suolo. Si sta con lui finché guarisce o muore. No, Paul, non voglio che ti fai impallinare in volo da papà. Tuo padre è ancora in fabbrica, Juliette. Sarò già lontano quando lui uscirà. E sarò ancora più lontano domenica, quando lui prenderà il suo fucile, la sua cattucciera, i suoi cani, i suoi fratelli, per andare a cacciare nel bosco. No, Paul! Hai visto? Recito bene, eh? Non voglio che tu muoia lontano da me. Non ho scelta, Juliette. Io sono... va bene, d'accordo. Smettila di camminare su e giù, ok? Paul? Paul? E io? Aspettando il tuo ritorno, che faccio? Ti iberni. Simpatico. Dai, su, non essere egoista, pensa a me. Lo faccio sempre. Mi scriverai? Shh! Ecco lì. Chi? Dove? Là. Ascolta. Bugie! Shh! Credi davvero che possa crederci? E smettila con questa storia ora, ok? Non mi fa più ridere. Abbracciami piuttosto, forza. Si abbracciano, si mettono a camminare. Lei lo segue, attaccata. Aspetta, dove vai? Abbracciami ancora, Paul. Mi piace troppo. Aspetta, non camminare così veloce. Non sporgerti così. Non... Paul. Paul si è sollevato al di sopra della strada. I suoi piedi non toccano più per terra. mentre gli occhi selvatici si avvicinano in volo. Il cielo si oscura, si cominciano a sentire distintamente gli occhi parlare fra di loro in mezzo agli hang hang di incoraggiamento di tutto il gruppo. Ehi, sono qua! Yuhu! Non è la piccola scimmia che agita le braccia, quella là? Paul, come fai? C'è un trucco, una telecamera nascosta, dei cavi, dei... Forza, piccolo, sali, non ti fermare! Ridiscendi, Paul, ridiscendi! Ciao, Juliette, ti racconterò! E tutti gli occhi in volo passano con gran sbattere di braccia sopra di lei. Ang, ang, ang, ang, ang, ang, ang, ang! E si allontanano con gran rumore. Quando il silenzio... E il disceso sul quartiere? Non ci credo, non ci credo. Paul, sto sognando. No, che deserto ora. È la notte che ne approfitta per scendere. Che botta. Paul, fa attenzione! Che culo che ha. E io? I lampioni si accendono. Juliette corre sempre più veloce nella notte che cade. Episodio 2 di Dirk Lauke. Personaggi: Emine, 8 anni, Jasmina, 18 anni. Un garage a Bad Doberan, sul Mar Baltico, Germania. Una notte tra il 1 e l'8 giugno 2007, durante il summit del G8. Il sole del sud mi chiama. Smetti! Guarda un po', Jasmine. Guarda, posso volare. Guarda, me ne volo lontano. Lontano da voi. Smetti! Lontano da voi tutti. Mi metto tranquilla là, nella via. Sbatto le braccia e... Per favore, Nin. Me ne volo lontano da voi. Lontano da tutti. Lontano, là dove il sole brilla, verso il Kosovo. Io volo. Volo. Non ne posso più, la smetti, sì. Io apro la porta e volo via. Tappati la bocca. Verso mamma e papà. Ya basta. Vi sbigliano così e escono a tutta randa. Per la quarta volta Jonas con una cesoia e gli squatter con degli zaini pieni di Kinder Surprise, pieni di colore. Attraversano la rete, si sfarpagliano tutto attorno a questo immenso hotel, tutto bianco, e paf! Non è più tutto bianco. Paf, paf, paf! La città linda, ripulita per quei coglioni del G8, non è più così pulita, ma rossa come il sangue che fanno colare agli altri. Bella idea. I Kinder Surprise. Li apri piano, recuperi l'ovetto giallo, lo svuoti e lo riempi di pittura. Li abbiamo fabbricati così. Anzi, qua c'è ancora del cioccolato, tieni, mangialo. Cosa vuol dire canasta? Cosa? Hai detto una cosa così? Ya basta, ho detto. Senti, non lo so neanche io, penso che viene dal Messico. Sei messicana tu? Emine, ci conosciamo da 3 anni. Ti ho mai parlato in messicano? Che c'entra? Io vengo dal Kosovo, ma sono nata in Germania. E anch'io a volte posso dire qualcosa senza sapere cosa vuole dire. Solo a volte, però. Tipo? Che cosa? No, non posso dirtelo. Ah sì che puoi? No. E perché no? Perché credo che è una parola brutta. E allora puoi? Ma se non so cosa vuol dire. E chi se ne frega? Potrò sputarla addosso al primo poliziotto e loro non potranno accusarmi di insulta pubblico ufficiale, no? È che non so se è una parola brutta o no. Non lo so. E questo non va. E chi se ne frega? Forse vuoi dire una parola brutta a qualcuno, non per essere cattivo. Invece gli dici qualcosa d'amore. È vero che tu sei innamorata di Jonas? Che ne sai? Sei triste perché non sei in battaglia con lui. Ma cosa vuoi che mi importi? E se succede qualcosa? E sarebbe? Se gli sparano. No, non hanno pistole. Non spareranno a Jonas. Non scherzare su queste cose. Davvero vuoi essere là? Sì, davvero. Ma non sparano. tu vuoi stare con Jonas. Jasmina vuole stare con Jonas. Jasmina vuole stare con Jonas. Jasmina vuole stare con Jonas. Ma non posso. E forse non posso perché i tuoi genitori sono in carcere prima dell'espulsione. E perché mi ritrovo seduta in questo garage con te. Devo farti da guardiano. Pensa che culo. Mi dispiace. Voglio vedere la mia mamma. Mi dispiace, Min. Scusa, davvero. Non lo pensavo. Ti voglio bene lo stesso. Dai, vieni, andrà tutto bene. Verrà la mamma e mio papà. Verranno. Usciranno dal carcere. Sì, non piangere più. Ma dovranno ripartire per il Kosovo. No. Sì, devono. Ma non lo faranno, lo capisci, Mine? Ma allora se partono senza di me? No, no, non c'è pericolo, te lo giuro, te lo giuro. Sarete di nuovo insieme. Da quanto tempo mi conosci? 3 anni. E ti ho mai detto una bugia? No. Ho mai tradito una promessa? Ti ricordi quando volevamo andare al mare e tu non potevi? Ti ricordi cosa abbiamo fatto? Siamo andati in bici. E allora? Non partiranno senza di me, vero? Vero. Perché se lo faranno, allora io mi devo far spuntare le ali. Leo me l'ha raccontato. Ha visto un bambino che è volato. Come un sacco di altri animali, con un sacco di altri uomini uccelli. Potevano volare in ogni direzione, come uccelli. Però erano uomini, anche in Kosovo, oppure dove fa caldo o dove fa freddo, anche sopra i poliziotti per fuggire. Di qua, di là, mi faccio spuntare le ali. Sì, sì. Ora dormi, hai gli occhi stanchi. Anche a mamma e papà. E allora dove siamo, siamo. Sogni d'oro, piccola mia. Jasmina. È un vero casino, eh? Sì. Cosa succederà? Allora, tu vuoi ritrovare i tuoi genitori e vuoi andare in Kosovo. No. Allora, i tuoi genitori non devono più partire per il Kosovo. Devono uscire dal campo, punto. Punto. Oggi c'è il concerto di quei cantanti di merda e Jonas conosce il tecnico di palcoscenico. E io avrò le ali. Ci farà passare fino al palco. Sì, ali. Gliele suoniamo noi, basta rock, gna gna gna. E sono della mia taglia. Davvero fatte per te. Come uomini uccelli. Bene. Bene. Molto bene. Riveleremo cosa succede qui mentre quei coglioni di politici discutono di immigrazione. Tu vuoi ritrovare la tua mamma. Ho detto proprio così? Non fa proprio bimba piccola. Ma no. Vabbè, forse lo dovrei dire con più forza, lo capisci? Voglio ritrovare la mia mamma. Ecco. Davanti a tutta la gente. Yeah. E poi me ne vado. No, gli racconti cosa è successo. Devono far uscire i tuoi genitori dal carcere e dopo potete abitare dove volete. E me ne vado e sbatto le ali e dico: guardate, guardate tutti, io volo via lontano. Volo via in tutte le direzioni, dappertutto, con mamma e papà, e sbatto le ali più forte che posso, fino in altissimo, ma non vanno benissimo, perché le ho costruite da sola, le ali, non posso fare come un uccello, io sono solo un essere umano. La porta si apre, i poliziotti catturano i mine. Episodio 3 di Eric Udenberg. Su una terra al nord, loco selvatico Hans erra solitario. Quando la tensione diventa troppo forte, gli uomini si comprano delle ali. Dove le vendono di preciso non so. Chi le possiede, e ne conosco diversi, sembra averle ricevute durante il sonno. E quindi non può essere sicuro della loro provenienza. All'improvviso, un mattino, sente le ali che affiorano dal corpo, come una veletta sottile. E si accorge che il suo orologio, o una moneta rara della sua vecchia collezione, è scomparso. Chi ha portato le ali si prende sempre qualcosa in cambio. È importante condurre l'affare in maniera onesta. Siccome non si sa bene da dove vengano, non si possono ordinare. O le si ha o non le si ha, quasi per caso. Sono così difficili da vedere perché si nascondono e sono fabbricate in un materiale molto strano, una pellicola sottile sottile, quasi trasparente come il celofan. Spesso le ali sembrano fragili, facili da bucare, ma l'apparenza inganna. In realtà sono quasi indistruttibili, a meno che non si esauriscano. Gli strappi e gli shock non hanno quasi effetto su di loro. Al contrario, a volte succede che un buon colpo di karate o un urto violento le renda più potenti e più belle di prima. Le ali hanno una grande influenza sugli occhi di chi le porta. Il portatore d'ali vede dritto davanti a sé. Vede, ma molto raramente guarda. Avere un contatto visivo con un portatore d'ali è difficile. E non perché costui sia cattivo, ma perché è pressoché impossibile sapere cosa vede quando vi fissa. I portatori d'ali conservano una punta di timidezza e di solitudine. E a volte diventano molto spirituali. Si esprimono con parole speciali che nessun altro può capire, parole che possono sembrare difficili da oltrepassare, e allora il contatto diventa difficile. Spesso gli uomini percepiscono i portatori d'ali come degli esseri un poco superiori e trovano le ali spaventose. Non capiscono che essi stessi potrebbero essere scossi da un arrivo d'ali una notte in cui la tensione diventa troppo forte. La crepa sul dorso è questo che fa paura. Il fatto che la schiena non sia più tutta intera, che qualcosa possa spuntare da dentro. In realtà non c'è nulla di cui aver paura. A volte i portatori non le sentono neanche le ali e può succedere che un giorno scompaiano da loro per sempre. Le ali sono senza dubbio più riposanti che spaventose. Sembrano spaventose solo agli altri perché sono una cosa strana su un corpo umano, ma in fondo sono come un vestito. È solo che a volte, nei momenti opprimenti, arrivano sul dorso degli uomini come il richiamo di qualcosa d'altro, ma di cosa non si può sapere. All'improvviso Han ha un sussulto, si tocca con la mano la spalla e decolla. Episodio 4 di Sylvain Levey. Personaggi Esco e Toff. Merda. Non riusciremo. Non si mette in moto questo motorino. Per forza è messo male. Merda, merda, merda. Di chi è il motorino? È il motorino di Michel. Chi è Michel? Michel è mio fratello. Mio fratello vero, perché io ho un fratellastro, Gabriel. A Gabriel lo chiamano tutti Gabby. Non vuole proprio partire. È un motorino di merda. Non partirà. È il motorino di mio padre, che l'ha passato a Michel, che l'ha passato a Gabby. Che poi l'ha passato a te. No, l'ho preso senza chiedere a Michel o a Gabby. Ma è una follia. Io non aspetto che me lo danno il motorino. Non sono così io. Mi dicono sempre: un giorno ce l'avrai il motorino, stai tranquillo. Ma non subito, non ora. Sei troppo giovane, troppo fragile, non lo saprai far partire. Non si sbagliavano. Mi dicono così da anni. E infatti non parte. E allora oggi mi sono detto che me lo prendo. Di sicuro non parte. Lo prendo e scappo. Ma per andare dove? Ho delle cose da fare io. Non è l'aspetto malandato a vedersi. Forse la miscela. Hai uno straccio. Voglio togliermi da questo buco, lo capisci? Pollini dell'Orto però è una buona marca. Non è andato sul risparmio il tuo papi. E mi daranno un fracco di botte, te lo dico, quando si accorgeranno che gli ho preso il motorino. Direi che non è la miscela. Forse è la testata che è sfondata, dovremmo smontarla. Che gli ho preso e in più scassato pure. Non puoi più smettere di parlare. Ok, frate, sto zitto. Eppure si fa così, bisogna spingere la pedivella in basso con il piede mentre apri la manopola del gas. Non bisogna ingolfare il motore. Lo so, lo so. È questo il segreto. Non bisogna ingolfare il motore. L'ha detto mio padre a Michel. Non bisogna ingolfare il motore, ha detto Michel a Gabby. Ma a me Non c'è bisogno di dirlo perché lo so da tempo e me la sbrigo da solo. Puoi smetterla di parlare? Sto cercando di trovare questo fottuto guasto. Ci vuole silenzio per ascoltare il motore. Ok, frate, sto zitto. L'iniettore non è incrostato. Le candele sono ok. Io? Zitto! Pedivelle ok, variatore ok. Anche se cerco non lo vedo dove è questo guasto. Non perdere tempo lì. Faccio quello che posso. Tra poco rientreranno. Faccio quello che posso, ti dico. E quando vedranno lo stato della moto che hai completamente smontato, non saranno contenti. Non piacerà a Gabby e Michelle. Non si mette in moto questo trapiccolo. Mi sto sporcando i pantaloni e la camicia. È cattivo segno il pantalone e la camicia tutti sporchi. Perché il ragazzo dell'interinale non mi prenderà sul serio vestito come uno sfigato. Mia madre me lo dice sempre. Sei vestito come uno sfigato del cazzo. Non è possibile. Perché? Perché non parte questo macinino? Non lo so, mi spiace, non lo so. Avrei voluto aiutarti, ma non si capisce. Ma perché? Proprio oggi che c'ho un sacco di cose da fare. Non ci capisco proprio più niente. Cioè, mi hai capito qualcosa? Se non ti fidi, è inutile che chiedi, eh? Sì, signore, io li conosco, i motori. Il mio motorino funziona, io non chiedo niente a nessuno. Senti un po'. Mi presti il tuo? Non si presta il motorino. A quest'ora ci sarà già uno sfigato che ha preso il mio posto. L'ho letto l'annuncio sul giornale e diceva colloquio fra le 2 e le 4 del pomeriggio e assunzione immediata. È per questo che ho fretta. Vedrai che domani si metterà in moto al primo tentativo. Oggi non ne vuole sapere, fratello, è destino. Tra le 2 e le 4 del pomeriggio. È troppo tardi, di sicuro? È destino, ti dico. E lo sai cosa gli faccio al destino io? Hai visto lo stato della baracca qui, no? È per questo che non sarà domani, ma oggi. Domani sarà troppo tardi. La baracca sarà crollata come la tua prima o poi. Se te lo dico è perché è vero. È piena di termiti. Non ti dico cazzate. La cazzata è questo motorino che non vuole partire. E oggi o mai più. È il mio istinto che parla e mi dice che tutto si può fare. Bisogna solo cercare l'occasione. È oggi il gran giorno. L'ho sottolineato sul calendario. Porca troia, perché? Non è possibile questo cavolo di motorino. Perché non si mette in moto questo catorzo? Assumono gente per mettere delle cose in dei sacchi. Non lo so cosa, ma riempiono dei sacchi. Questo lo so. È un bel lavoro mettere delle cose in dei sacchi. Non è proprio quello che volevo fare all'inizio. Volevo fare l'informatico come Gabby, ma non trovo uno stage. E non mi dispiace dover mettere delle cose in dei sacchi. Ma hanno detto oggi, tra le 2 e le 4 del pomeriggio. Io ho preparato tutto. La mia foto, guarda, guarda, guarda come sono bello in questa foto. C'ho il giubbotto, di solito non me lo metto. Il giubbotto era di mio papà, che l'ha passato a Gabby, che l'ha passato a Michelle, che me l'ha passato per i miei 18 anni. Non lo vedi dalla foto, ma dietro c'è scritto Angels and Devils. Angeli e demoni. Se lavori bene, se metti bene le cose nei sacchi, dopo ti propongono un altro lavoro. Dividi i sacchi e li metti in una cassa. E dopo le casse partono su dei camion. E se tu sei proprio un figo, ti propongono di imparare a guidare il camion per portare le casse ai clienti. Ma ti rendi conto che ho perso tutto questo a causa di 2 o 3 pistoni arrugginiti di merda? Che cos'è quella tanica? Oh, aspetta un po', è benza. Che tipo di benza? Per il catorcio, per andare all'interinale. Cosa c'è scritto sulla tanica? Motore a 4 tempi. Cosa c'è scritto sul motorino? Motore a 2 tempi, oh no, merda! Giriamo a destra. L'interinale è di là. Non serve più a niente. Perché no? Non sono ancora le 4. Le 4 meno 5, non ti prenderanno più. Credi? E come ti dico? Vale la pena tentare. Ti riderranno dietro. Tentare la fortuna. Il posto è già preso da tempo. Ma tu credi che... E come ti ho detto? Forse hai ragione. Ho ragione di sicuro. Voglio tentare lo stesso. Hai visto come sono i tuoi pantaloni? Per non pentirmene poi. Hai visto la camicia? Avevo sottolineato sul calendario questo giorno. Conosci la collina di Momo? No! Andiamo alla collina di Momo. Che cos'è la collina di Momo? La collina di Momo è una via in discesa che finisce con una piccola salita. prendi lo slancio nella discesa. Se spingi a fondo vai a manetta. Quanto va il motorino? Non supera gli 80, ma poco si manca. Ecco, la discesa arriveremo agli 80, sta sicuro. Spingi più a fondo che puoi nella discesa e vai gli acceleratore quando arriviamo alla salita. E così voli come un uccello. Sembra impossibile, ma fai il salto dell'angelo, frate. I tuoi occhi non ci credono, tanto sei in alto. E laggiù alla collina di Momo ci sono sempre delle ragazze che aspettano. E sei saltato bene. Ti fanno vedere cosa c'hanno sotto. Dov'è la collina di Momo? A destra, no? Ok, al ritorno se andiamo. Al ritorno sarà troppo tardi, le ragazze non ci saranno più. Faremo il salto dell'angelo per puro divertimento, per allenarci, per il brivido. Fare il salto dell'angelo se non ci sono le ragazze non ha senso. Credi? Ma l'interinale... Chiuso! È chiuso! Ci andrai domani. È oggi, tra le 2 e le 4 del pomeriggio, domani sarà troppo tardi. Ma non ci andrai mai più e chi se ne frega. Andiamo a vedere le ragazze alla collina di Momo. Io comunque ci vado. Aspetta, aspetta, aspetta, dai, dai, vengo con te. Sono le 4:15, dai, quasi 20, è troppo tardi. E poi... E poi sti cazzi, sei proprio un figo, Toff, un figo. Anche tu, Esco, sei figo. Fa un bel rumore il tuo motorino, hai proprio un bel motorino, cazzo. Anche il tuo non è male. Pronto per il grande salto, Esco? Sì, pronto, super pronto per il grande brivido. Partiti! Acceleriamo, spingiamo sull'acceleratore. I capelli al vento. Siamo partiti! Che peccato che sono vestito così, perché se ci sono le ragazze sarei stato più figo con il mio giubbotto con la scritta Angel Davis sulla schiena. Le ragazze lo adorano, mentre con questa camicia e questi pantaloni sembra che vado a una comunione. Meno male che non ho messo la cravatta. La cravatta mi sembrava troppo anche per il lavoro, non mi sarei sentito in me, non a mio agio, insomma. E io, quando non sono a mio agio, balbetto e divento tutto rosso e sudo sotto le ascelle, soprattutto sotto le ascelle, e dopo c'è la macchia e allora non puoi muoverti e allora vedi che la cravatta non era una buona idea. Accelera ancora, Esco, parla meno, tu parli troppo e pigia sull'acceleratore e dai di gas perché la salita ci arriviamo fra poco. Sì, hai ragione, parlo troppo, è solo che volevo dirti che mi dispiace non avere il giubbotto di pelle. Apri bene gli occhi, stringi le chiappe, stringi i denti, stringi tutto quello che hai e chiudi la bocca. Decoleremo, più di 100 metri di botto. Eccola, eccola davanti a te. Guarda il vuoto, non si vede la fine. Eccola, eccola là, la collina di Momo. La famosa collina di Momo. Felice di conoscerti. Lo sai che non mi dispiace per l'interinale. Avrei dovuto rinunciarci solo per mettere delle cose in dei sacchi. E poi sono sicuro che ci vuole un diploma o qualcosa così. E io non ho nessun certificato, mi avrebbero riso dietro. E ci sarei rimasto male, no? Avrei balbettato e quindi è meglio così. Ma dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, Toff. Ci saranno tante ragazze in basso alla collina. E dimmi, tu hai mai visto cosa c'hanno sotto? Io... Tu hai già visto, sono sicuro che hai già visto, ma non vuoi dirmelo per non farmi invidia. Io mai, te lo dico, mai visto, non ho idea a cosa può assomigliare. C'è da dire che non ho sorelle e tu ce l'hai una sorella. Hai già visto sotto a tua sorella, lo sai? Lo sai che ti voglio bene, Top? Wow, ci siamo quasi. È vero che siete di brutto merda. Lo sai che... Mi senti? Mi senti? No, non mi senti con questo vento delle orecchie. Lo sai che per far colpo sulle ragazze alzerò le braccia qualche secondo davanti a loro e saranno obbligate dopo. Sarò il re, lo capisci, Top? Il re degli angeli. Non avranno mai visto una cosa così. Lascerò le mani dal manubrio. Attenzione, 1, 2, 3. Guarda, guarda, guarda, guarda. Mi vedi bello davanti, troppo figo. Wow! Oh, oh, oh, oh. Knut? Sì, Paul? Non hai visto qualcosa passare? Sì. Knut? Sì, Paul. Non hai sentito un rumore forte come un tonfo? Sì. Povero ragazzo. Chissà come si chiamava. Esco. Knut? Sì, Paul. Come lo sai? Gli occhi sanno tutto. In marcia ora. Dove andiamo? Direzione Berlino-Copenaghen. E dopo una pausa di 3 settimane a Stoccolma per la primavera. È bella Stoccolma. Più che bella, Paul. Più che bella. Episodio 5 di Federica Iacobelli. Personaggi: Cesare, 13 anni, italiano. Non ha le ali, ma ha la mente alata, un po' diversa da quella degli altri. Francesca, 40, italiana, madre di Cesare. Non ha le ali, ma forse sa che cosa sono. Emine, 9, kosovara. Ha le ali da quando è decollata dalla scala antincendio della caserma di Bad Doberan, Germania. Barbara, 70, svedese. Ha le ali da quando non ha potuto più stare dritta in piedi sulla terra. Un pomeriggio d'estate. Una spiaggia sul mare Tirreno in Italia. Il cielo minaccia pioggia. Sul bagnasciuga, Francesca e Cesare, le spalle al mare. Vieni a casa, Pulcino. Io non sono un pulcino. Cesare, dai, vieni a casa. Sempre i piedi per terra, sempre uguale. Nel blu io voglio andare. Ma per andare dove? Non lo so. Dove mi porta? Le tue solite storie? Voi non le sapete le mie storie. Né tu né il nonno le sapete. Noi ti abbiamo visto nascere, Pulcino. Ti abbiamo visto diventare grande giorno dopo giorno. Io sono grande, madre. Io voglio tuffarmi adesso. Io voglio volare. Nuotare si dice, non volare. Ma io dico volare. Non te l'abbiamo mai impedito. Mi avete detto che nel mare ci sono i pescecani e le meduse giganti, che da lì arrivano gli stranieri, che si prendono i funghi e pure i virus. Già, le solite storie, ma non tutte. C'era una storia, madre. Tu la raccontavi. La bambina che si brucia le mani per tessere i maglioni con l'ortica e le spine e così salvare i suoi fratelli trasformati in cigni dal sortilegio cattivo di una strega. Ti ricordi? I cigni selvatici, ma certo. Era la mia storia da bambina. Finiva che i fratelli tornavano fratelli. Ti ricordi? Uh-huh. I piedi per terra, come prima. Però non era bello. Non mi piaceva, madre. A me piaceva quando erano cigni e volavano sopra al vasto mondo, dai paesi freddi a quelli caldi. Lunga strada! A me piaceva quando si arrangiavano da soli. Certe volte tu sei come lei. Lei chi? Viene la pioggia, dai. Ti aspetto a casa. È già scoppiato un tuono. Cadono già le prime gocce. Intorno alla riva si fa buio. Francesca va, Cesare resta. Si volta verso il mare, mette un piede nell'acqua, ma sta fermo. Nel mare ci sono i pescecani e le meduse giganti. Nel mare si prendono i funghi e pure i virus. Dal mare arrivano gli stranieri. Oh! Un bagliore in mezzo al mare rompe il buio. Cesare urla, urla di paura e di stupore. Poi il bagliore scompare e compaiono Barbara e Emine, che camminano verso la riva. Solo Barbara un po' zoppicante. Anc. Io sono Cesare. E voi? Anc. Emine, basta fare Anc. Siamo atterrate. Anc. E gli altri dove sono? Mi sa che ci siamo perse. Perse? Io mi ero già persa. Però voi siete passati su per la caserma dove stavo e io vi ho seguito. Su in alto, per ritrovare la mia mamma. Chi siete voi? Siete straniere? Se questo mare non mi inganna, allora siamo in Italia, dall'altra parte del Mediterraneo. Accidenti! E sta sul cielo blu, l'Italia? Sì, Siete straniere. Quello non è il cielo, Emine, quello è il mare. Anche se il blu ti sembra uguale. Non dovevamo essere in Spagna a quest'ora. Spagna, capitale Madrid. Abitanti, non me ne ricordo. Altre città: Barcellona, Valencia, Siviglia, Saragozza. Ho sbagliato qualcosa? Non farci caso, bimbo. Emine è nervosa. Aveva perso gli altri occhi. Occhi? Gli occhi, sì, gli occhi selvatici. Aveva perso tutti gli occhi, compresa me. Ma io volevo riportarla indietro sulla rotta e l'ho raggiunta. Solo che poi l'ho persa anch'io la strada. Che testina. Ho scambiato il blu del mare con il cielo. Eh già, mi succedeva sempre qui in Italia, quando ancora non riuscivo a volare. Nuotare. Si dice nuotare, non volare. Volare, sì. Sì, come gabbiani, come rondini, lucciole, farfalle. Occhi! Occhi, sì. Come quando non ce la fai più a stare rinchiusa e sempre sola, e allora prendi la rincorsa e... E se corri, sudi e ti raffreddi. Per me è uno sbirro questo qui. Dobbiamo andarcene da qui. Se mia madre non torna, ce la fate, eh? Lei fa il dottore, come il nonno, però il dottore delle teste, dei cervelli. Lei se vi vede pensa che siete un po' suonate, come me, eh? E non vi fa più andare, ve lo dico. Come si chiama tua madre? Francesca. Francesca. Tu sei strana. Mi guardi e non mi vedi. Non ti accorgi se ti guardo gli occhi. Sembri mio nonno quando dice ai suoi grandi pensieri dritti al muro. E come si chiama tuo nonno? Nonno Antonio. Antonio. La nonna invece si chiamava Barbara, ma non c'è più. Tu non hai mai volato? Nuotato, dici? No, mai. È bello, sai, prima pensi che sia come una fiaba, come una storia da inventare. Dopo però, quando incominci, allora scopri che è reale. E poi dall'alto le cose si vedono più chiare, quasi tutte. C'era una storia, eh? La bambina che tesseva i maglioni con l'ortica per salvare i suoi fratelli trasformati in cigni migratori da una strega. La conosci, Mine? Io la conosco, la tua storia. Sì, anch'io. E i cigni sono come gli occhi. Non stanno male se possono volare tutti i giorni. Esatto, senza tenere i piedi sempre a terra. Anch'io l'ho detto, Emine, anch'io, ma... Ma Barbara è rientrata in mare. Cammina verso il largo, zoppicando. Poi perde l'equilibrio e cade. Ehi, Barbara! Barbara! Emine corre da Barbara. Una nube cala sopra il blu del mare e così... le avvolge e le nasconde. Ehi, voi, andate via, aspettate. Ehi, Barbara, Barbara. Piangi? Perché? Ehi, voi, mi dite quale rotta fanno gli occhi? La pioggia ha smesso di cadere. Un po' di luce nel rumore di onde. Francesca torna sulla riva. Ehi, Pulcino, che fai? Hai provato a nuotare? Volare. Si dice volare. Sei proprio uguale. Ma il mare e il cielo si toccano? Si incontrano? Sei uguale, come lei. Lei diceva che il mare qui è dello stesso blu del cielo e si confonde. Lei chi? Lei, la mamma. La nonna, Barbara. Lei è stata qui, lo sai, ma tanto tempo fa. E poi? E poi prese un virus, un brutto virus, quando io non ero che un pulcino. Non riusciva a camminare, non teneva più i piedi per terra. E allora tornò in Svezia, il suo paese, lontano, per curarsi, avanti e indietro, così, per qualche tempo. E poi un giorno non è più tornata. Come lo presi? Bah, forse in aria. Esatto. Lei vola. Già stava male, mi ricordo. e diceva di sentire qualche cosa che spuntava dietro alla sua schiena. Diceva al nonno di non prendersela troppo se un giorno non avesse più tenuto i piedi in terra o se avesse dato via quell'orologio da polso che adorava in cambio di un bel paio di ali. Era lei, madre, l'ho vista. Non aveva l'orologio e non teneva i piedi per terra. Lei è tornata. Un giorno ha detto che non tornava più, che... Era lei, madre. Era con Emine, una bimba straniera, molto carina. Si erano perse. Sì, sì, le tue solite storie. No, loro vanno per il vasto mondo. Volano su, su, in alto, insieme agli altri occhi. Cercano il caldo e non hanno paura, anche se sono piccole, anche se sono sole, anche se non camminano bene. Sei come lei, le ali ce le hai nella testa, per questo il nonno non ti lascia andare. Loro hanno le ali, madre, le ali vere. Non si vedono bene, ma si vedono dentro ai loro occhi. E lei aveva gli occhi uguali ai tuoi. Blu mare? Francesca si volta verso il mare. Anche Cesare si volta. Lei gli fa cenno di entrare. Lui tentenna. Entra, dai, entra. Io ti aspetto a casa per la cena. Ah, al nonno non diciamo niente, eh? Ma gli occhi, tu li conosci? Li hai mai visti? Ah, gli occhi? Ora sei pronto. Puoi andare. Sì, non sei un occhio anche tu. Allora, occhi non si diventa per il sangue. Sei come lei. Sei proprio come lei. Francesca accenna un saluto verso il mare, come verso qualcuno che non vede. Poi se ne va. Scompare. Rimasto solo, Cesare trema di paura e non si muove. Nel mare ci sono i pesci cani e le meduse giganti. Nel mare si prendono i funghi e pure i virus. Dal mare arrivano gli stranieri. In mezzo al mare un bagliore. È Barbara che torna. Nonna! Barbara si avvicina alla riva, gli tende la mano. Io non ce le ho le ali. Vieni. Emine dov'è? Volata per la sua rotta. E tu cammini? Insomma, mi prese un virus, sai che... Però le hai le ali. Le vedi? Fuori no, però le vedo nei tuoi occhi. Blu mare o anche blu cielo. Sì, ma allora? Allora se vieni ti racconto una storia. I due si inoltrano nel mare. Vanno verso il largo lentamente. C'era una volta una bambina triste. Una strega aveva trasformato in cigni i suoi fratelli e lei filava maglie con le ortiche per spezzare il loro sortilegio. Lei era triste, ma i suoi fratelli meno, molto meno. Loro volavano, e volavano dai paesi freddi a quelli caldi, e scoprivano il mondo e le persone. Sulla terra adesso si fermavano per poco, due o tre volte all'anno, ma ogni tanto passavano accanto alla sorella e lì, dall'alto, le sussurravano piccoli segreti per diventare più leggera o per volare nel cielo o nella testa. L'aspettavano sopra una collina o sotto un ramo e a lei bastava guardare gli occhi di quei cigni per vedere quanto il mondo fosse vasto e vario e bello e per lasciare andare la tristezza, volando almeno un poco con la fantasia. Cesare e Barbara sono all'orizzonte, nel punto dove il mare blu lascia il posto al cielo dello stesso blu. Scoppia un tuono, viene il buio dappertutto, e nel buio, prima del silenzio, rimane l'eco delle loro voci. Io Ho paura di volare, nonna. Qui tutti hanno paura, sempre avuta. Eppure il cielo è lì, lo vedi? Dove il mare finisce, proprio lì. Abbiamo visto Paul al primo volo insieme agli Occhi. Abbiamo visto Emine desiderare alzarsi in volo come gli Occhi per ritrovare i genitori persi nella guerra e per sfuggire alla carica dei poliziotti durante il G8 di Bad Doberan, Germania. Abbiamo visto Hans, che forse è un Occhio da molto tempo, riflettere su quali circostanze portino certi umani a alzarsi in volo e a migrare chissà dove. Abbiamo visto Esco prendere una rincorsa giù in discesa con il motorino, ma schiantarsi e lasciare questa terra anziché prendere il largo verso l'alto. E gli Occhi guardarlo dal cielo, immigrazione. Abbiamo visto Barbara, che è un Occhio da molto tempo, perdersi forse apposta e ritrovare in questo modo una figlia lasciata da bambina e un nipote che ancora non conosceva. Vanno dal freddo al caldo gli Occhi, ma poi, quando c'è caldo anche da loro, cosa fanno? E le ali? Le prendono da fuori o se le fanno nascere sul dorso? E perché? E quando? Quanto alla rotta, la percorrono insieme, sempre uguale, oppure ognuno viaggia un po' da solo, ognuno ha la sua storia e migra per cercarne un pezzo o ritrovarlo. L'unica cosa quasi certa e quasi bella è che gli Occhi volando guardano come in panorama i paesi e i posti e i luoghi più diversi e che spostandosi, che sia dal freddo al caldo o viceversa, capovolgono il punto di vista. Alzando gli occhi al cielo, attraverso le nuvole e lasciando perdere la sottile pellicola d'inquinamento, è possibile vedere, a condizione di volerlo veramente, un Occhio, poi due, poi tre, poi una moltitudine di Occhi che volano sopra le teste della moltitudine di coloro che sono ancora terrestri. Sono uomini uccello di tutte le età che attraversano il cielo d'Europa in migrazione stagionale. Le loro ali quasi invisibili escono dal dorso degli uomini che non se lo aspettano. Un giorno, quando la tensione è troppo forte, in Francia, in Svezia, in Germania, in... Alcuni hanno tentato la fortuna senza risultato. Altri ci sono arrivati per caso e senza nemmeno accorgersene. Girando le braccia con vigore, correndo veloci in una via in discesa, non tenendo conto del rischio che simile avventura comporta, a condizione di desiderarlo veramente, è possibile raggiungere gli Occhi e continuare il viaggio attraverso città e campagne. A chi tocca ora raggiungere gli uomini volanti?